paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono, il niente sono la tua malattia. Paese mio, ti lascio, io vado via. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto, forse niente, da domani si vedrà e sarà, sarà quel che sarà. Amore mio, ti bacio sulla bocca, che fu la fonte del mio primo amore. Ti do l'appuntamento come quando non lo so, ma so soltanto che ritornerò. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Una nenia di paese suonerò. Gli amici miei son quasi tutti via, e gli altri partiranno dopo me. Peccato, perché stavo bene in loro compagnia. Ma tutto passa, tutto se ne va. Che sarà? Con lei vedo il sole, lo sai, ma svegliandomi poi il buio. Il denaro che ho anche lui brilla un po', ma ritorna però il buio. Io vorrei pregare, ma le mie mani non so unire. Tu dammi la fede persa, tu l'azzurro in cuore versa, io senza di te cadrei, perché la mia è solo una folle corsa. Tu dammi la fede persa, tu te la puoi, tu l'azzurro il cuore versa, tu te la puoi, che lo puoi, fallo per me, fallo per te. La mia è solo una folle corsa. Se la mia voce non ha più eco, se nel mio cuor non c'è più fuoco, se nei miei occhi è sceso un velo, se nel mio mondo non c'è più cielo, allora tu dammi la fede persa, tu l'azzurro in cuore persa, tu dammi la fede persa. in auto perché a scordarti io provo, ma fuggendo non vivo, io muoio. Io vederti vorrei, nel bicchiere non sei, voglio luce mi dai, buio. Io vorrei pregare, ma le mie mani non so unire. Tu dammi la fede persa, tu l'azzurro in cuore versa. Io senza di te cadrei, perché la mia è solo una folle corsa. Tu dammi la fede persa, tu che la vuoi, tu l'azzurro in cuore persa, tu che lo puoi, fallo per me, fallo perché la mia è solo una folle corsa. Se la mia voce non ha più eco, se nel mio cuore non c'è più fuoco, se nei miei occhi è sceso un velo, se nel mio mondo non c'è più cielo, allora tu dammi la fede persa, tu l'azzurro in cuore persa, tu dammi la fede persa. Che lo puoi. Tu che lo puoi. Dammi la fede che non ho più. La fede che non ho più. La fede che non ho, la fede che non ho più, la fede che non ho più, la fede che non ho più, la fede che non ho più. Hey! No! Proprio a te, lo sai, che strano, proprio qui, dove tutto finì, incontrarci così, quasi non mi sembra vero, forse sto sognando eppure no, sei proprio tu, sei proprio tu. Sei proprio tu. Come stai? Da allora dimmi, mi hai pensata mai? Io ti ho pensato sì, io ti ho rimpianto sì, ti cercai, caro, non so che dire. Fatti guardare, non sei cambiato, come stai? Come stai, amore mio, che gioia che mi dai? dal giorno che finì ho un grande gelo qui che si scioglie così. No, non è successo niente, questo tempo non c'è stato, ti amo come prima, forse di più, forse di più. Come stai? Sei dolce, dolce, dolce, più che mai, è dolce il tuo dolore, meraviglioso amore. Sto piangendo fra le tue braccia, come stai? Da allora è passato tanto tempo, ma il nostro è stato un amore meraviglioso che abbiamo vissuto attimo per attimo profondamente. Poi il mio uomo mi ha fatto un grande dispetto. È partito per un viaggio dal quale non si ritorna più. Ma io l'aspetto, l'aspetto ancora, perché sono sicura che tornerà. E quando arriverà, io gli dirò semplicemente: come stai? È tanto che ti aspetto e tu lo sai. Conosci il mio dolore, meraviglioso amore che non vuole morire. Caro, non dirmi niente, dammi la mano ed in silenzio portami con te. Cercavo, volevo darti uno schiaffo, sai la ragione non dire no, so la ragione non dire no. Ah, Elena ha detto che ieri sei stata da un altro, sai la ragione non dire no, so la ragione non dire no, no, no, no, no. Dici di essere stanca, vuoi stare un mese da sola, sai la ragione non dire no, so la ragione non dire no. Ah, strano che proprio stasera hai messo pure rossetto, sai la ragione non dire no, so la ragione non dire no, no, no, no, no, no. Non è possibile che sbagli, sai?